Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io credo sia stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle. Considerate, vi do qualche dato, che in Campania passiamo dal 17% al 10%. In Campania 2 anni fa il Movimento sfiorò il 50% alle elezioni politiche. In Campania abbiamo eletto decine di parlamentari, è campano il Ministro degli Esteri, è campano il Presidente della Camera, è campano il Ministro dell'Ambiente, è campano il Ministro dello Sport e abbiamo preso il 10%. Durissima autocritica, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di un esponente simbolo di spicco del Movimento 5 Stelle sulla tornata elettorale che si è chiusa ieri. Di Battista, Alessandro Di Battista, mentre ieri Di Maio e i parlamentari pentastellati hanno esultato, tranne qualcuno, per la netta vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari, che sapete appunto è un argomento, è stato un tema identitario della storia del Movimento 5 Stelle, però Di Battista dice questo è stato il tutto il resto, cioè la tornata elettorale, i voti regionali, sono stati la più grande sconfitta per il Movimento 5 Stelle. Allora, dopo lo speciale elettorale di ieri di Effetto Notte, che è durato 2 ore, adesso stasera torniamo con gli ospiti e anche i vostri commenti sui risultati visti il giorno dopo. Per esempio, Zingaretti è davvero il vincitore insieme al PD della tornata elettorale, il Movimento 5 Stelle è il vincitore per quanto riguarda il referendum, Salvini è davvero lo sconfitto. Insomma, ieri c'erano un po' questi schemi. Ne parleremo, poi torneremo sull'Italia che deve proteggersi dai contagi di importazione, così dice il viceministro Sileri e il ministro Speranza ha detto che ci aspettano dei mesi molto difficili di resistenza. Per parlarne ci sarà la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Poi ci sono i furbetti della cittadinanza italiana, come il plurimilionario calciatore Suarez che doveva fare l'esame di italiano all'università di Perugia, però è stata una truffa, si è capito dalle intercettazioni. Ne parleremo perché è un fatto che ha degli aspetti grotteschi, ma altri anche che riguardano un'inchiesta molto pesante e molto importante. 349-238-6666, come sempre il numero per i vostri messaggi via WhatsApp, 349-238-6666, altrimenti comodamente per voi, come sempre, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di approfondire alcuni temi con gli ospiti, come sempre, sintesi della giornata. Il giorno dopo il voto, PD primo partito, ora una fase nuova, dice Zingaretti, mentre Di Battista dichiara alle regionali la più grande sconfitta per i 5 Stelle e Conte commenta «Non ero in bilico ieri, non sono inamovibile oggi e non penso al rimpasto». Elezioni comunali, il sindaco Brugnaro confermato a Venezia, Reggio Calabria verso il ballottaggio, Trento e Mantova al centro-sinistra, dopo la regione Marche il centro-destra espugna anche Macerata. L'epidemia di coronavirus in Italia, contagi stabili, 1.392 in calo i morti, che sono 14 nelle ultime 24 ore. Il viceministro Sileri avverte, i casi saliranno. Il ministro Speranza sottolinea, ci aspettano mesi difficili e di resistenza. Il Covid nel mondo, il presidente americano Trump accusa, la Cina ha infettato il mondo. Accuse senza fondamento, ribatte il presidente cinese. In arrivo pesanti restrizioni in Gran Bretagna, a breve il discorso alla nazione di Boris Johnson. L'esame di Suarez all'Università di Perugia per ottenere la cittadinanza. Per la procura si tratta di una farsa. Nobel causa coronavirus, non ci sarà la cerimonia dei premi la prima volta dal 1944. Partiamo quindi dalla politica italiana con i risultati delle comunali, elezioni comunali che si risolvono in una sostanziale parità tra centrodestra e centrosinistra, almeno nei capoluoghi dove è stato eletto il sindaco al primo turno, cioè appena 5 su 18. In attesa dei ballottaggi in programma tra 15 giorni, il centrodestra si conferma a Venezia con Luigi Brugnaro e conquista Macerata dove Sandro Pescaroli succede a Romano Carancini. Il centrosinistra invece trionfa a Trani, Mantova e Trento rispettivamente con la riconferma di Amedeo Bottaro, Mattia Palazzi e l'elezione di Franco Ianeselli che prende il posto di Alessandro Andreatta. Per il Movimento 5 Stelle le uniche speranze sono affidate a Matera e Andria, dove il loro candidato potrebbe correre per il ballottaggio. A Fermo si conferma Paolo Calcinaro, candidato di alcune liste civiche che porta a casa oltre 10.000 voti in più rispetto ai suoi concorrenti. I comuni capoluogo che andranno al ballottaggio, salvo clamorosi colpi di scena, sono Chieti, Matera, Crotone, Reggio Calabria, Lecco, Andria, Arezzo, Durazzo e Bolzano. A Nuoro, in Sardegna, si voterà il 25 e 26 ottobre, mentre ad Agrigento ed Enna in Sicilia il 4 e il 5. Questi quindi i numeri sulle comunali, numeri ancora non definitivi, ma negli schieramenti è già resa dei conti. Il Partito Democratico rivendica il successo del voto alle regionali e il segretario Nicola Zingaretti chiede di cambiare i decreti sicurezza, insiste sull'utilizzo del MES e vuole andare avanti sulle riforme, legge elettorale proporzionale e superamento del bicameralismo paritario. Il Partito Democratico torna ad essere il primo partito politico italiano dove si è votato con il 19,8%, circa il 20% del consenso. Sul rimpasto Zingaretti glissa, sta il Presidente del Consiglio valutare. Nei 5 Stelle invece si apre la lotta per la leadership. Per Alessandro Di Battista quella delle regionali è la più grande sconfitta dei 5 Stelle. Dal canto suo invece Luigi Di Maio chiede stati generali subito e rivendica il successo del referendum. È un referendum storico che dice al Parlamento vai avanti con le riforme istituzionali. Cauto il premier Giuseppe Conte, che non sente la necessità di rimpasto e risponde così sull'ipotesi che oggi il governo sia più forte. Non mi sento di dire invece che il governo è rafforzato, ma io non mi sono mai sentito in bilico. Oggi invece molti commentatori mi descrivono inamovibile, ma io non mi sento inamovibile, non ho questo modo di ragionare. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Recovery Fund, meccanismo europeo di stabilità e modifica dei decreti sicurezza sono sul tavolo di Giuseppe Conte. Temi accantonati nelle settimane del rush finale su elezioni e referendum sono ora tornati prepotentemente alla ribalta. Saremo giudicati sul Recovery Fund, il paese sia serio, dice il Presidente del Consiglio. I 209 miliardi destinati all'Italia ci consentiranno di reinventare una nuova normalità, osserva Conte. Non c'è crescita, aggiunge, che sia affidata solo al PIL senza sviluppo ambientale e sostenibile. Ribadisce che sul Recovery Plan ci sarà il confronto con l'opposizione e sul MES, tema spinoso che divide la maggioranza con i 5 Stelle contrari, Conte spiega che il dibattito sul sì o sul no è pregiudiziale. Prima, sostiene, va definito un piano per rafforzare la sanità. Ma il PD, favorevole a usare le risorse del MES per la spesa sanitaria legata all'emergenza Covid, incalza il governo e Nicola Zingaretti chiede al ministro Speranza di presentare il piano della nuova sanità italiana. Per poter costruire il migliore sistema sanitario del mondo, puntualizza il segretario Dem, si utilizzi il finanziamento del MES. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Acque agitate anche nel centrodestra dopo l'affermazione di Zaia in Veneto e Toti in Liguria. Siamo la maggioranza di questo paese, il governo ci ascolti su scuola, lavoro, sostegno alle imprese, sblocco dei cantieri. All'indomani del voto si rivolge all'esecutivo il segretario della Lega Salvini che nonostante la sconfitta in Toscana giudica un successo il risultato delle regionali. Non penso che il governo esca stabilizzato dal voto, commenta invece la leader di Fratelli d'Italia Meloni che insiste nel chiedere elezioni anticipate. Dopo il suo trionfo personale, il governatore del Veneto Zaia assicura intanto di non puntare alla leadership della Lega. Io non ho mire nazionali. Quando dico è un voto dei veneti per il Veneto, significa che io ho una responsabilità e devo dar corso al mandato che mi hanno dato. Forte della sua riconferma, il governatore della Liguria Toti rilancia invece sul tema dell'autonomia e chiede di guardare oltre l'ala sovranista allargando il centrodestra anche ai moderati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il governo è promosso dai mercati con lo spread BTP Bund in calo, piccolo rimbalzo per Piazza Affari. L'effetto elezioni c'è stato, almeno sullo spread. Secondo gli analisti, il risultato elettorale sarà di supporto alle azioni del governo e quindi a favore della stabilità. Per alcuni il maggior peso nelle urne dei Dem aumenterà poi le chance di utilizzo del MES. E così lo spread BTP Bund è sceso ben sotto la soglia dei 140 punti base, intorno a 136, e Piazza Affari ha messo a segno un rimbalzino di oltre mezzo punto dopo il crollo della precedente seduta. Il recupero si è attenuato strada facendo, così come per gli altri listini europei spinti all'ottimismo dalle stime sul PIL tedesco nel 2020 dell'IFO, che ha previsto un tonfo meno grave del previsto, ma pesano sempre i timori per nuovi lockdown. Londra e Francoforte Francoforte hanno guadagnato lo 0,4%, mentre Parigi ha ceduto lo 0,4%. La strada della ripresa economica è lunga e molto incerta e dipende dal coronavirus per il presidente della Fed, Jerome Powell, che conferma l'impegno dell'Istituto Centrale, ma auspica nuove misure da parte del governo USA. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo all'epidemia di coronavirus in Italia. Si è stabilizzato nelle ultime 24 ore il numero di contagi per il Covid. Nell'ultimo giorno i nuovi casi sono stati 1.392 a fronte dei 1.350 del giorno precedente, anche se hanno superato i 300.000 i contagi dall'inizio della pandemia in Italia. In lieve calo il numero dei decessi, 14 morti nell'ultimo giorno rispetto alle 17 vittime di ieri. Il totale delle vittime è 35.738 e sono stati 87.303 i tamponi effettuati, circa 4.000 in meno di ieri. Questo dal bollettino del Ministero della Salute. Il vice ministro Sileri avverte: i casi saliranno, e il ministro Speranza sottolinea: ci aspettano mesi difficili e di resistenze. Per parlarne qui Effetto Notte sarà ospite tra poco la sottosegretaria alla salute Zampa. All'estero adesso l'emergenza coronavirus è di nuovo in ascesa nel Regno Unito, per questo si impongono nuove misure restrittive che tuttavia non sono in alcun modo un nuovo lockdown. L'ha formalizzato il primo ministro Boris Johnson, poi ci collegheremo con Londra per sapere appunto in cosa consistono queste misure più restrittive e anche perché a momenti dovrebbe Boris Johnson fare il suo discorso alla nazione. Negli Stati Uniti adesso le vittime di coronavirus hanno superato quota 200.000, mentre i contagi stanno raggiungendo i 7 milioni. Sono ottimista per il vaccino e spero che per Natale 2021 si torni a una quasi normalità, ha detto l'immunologo della Casa Bianca Anthony Fauci. E da Trump arrivano nuove accuse alla Cina. Dice: la Cina ha infettato il mondo. Questo è il duro attacco del presidente americano con cui ha aperto il suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Dobbiamo rendere responsabile la Cina, ha detto, che ha diffuso questa piaga nel mondo. I viaggi di Radio 24. Immagini dalle città del mondo dove la pandemia continua la sua corsa. Come si vive nelle grandi metropoli? Il viaggio di Radio 24 ci porta oggi a Barcellona, la città più ferita in Spagna. Il rumore delle saracinesche è diminuito sensibilmente nel centro di Barcellona, dove si contano ormai a decine le chiusure di esercizi commerciali. Secondo le associazioni di categoria, il 15% dei bar e ristoranti del capoluogo catalano ha cessato la propria attività ed un ulteriore 40% potrebbe presto seguire la stessa sorte. Una crisi legata in buona parte alla mancanza degli introiti garantiti dal turismo, pilastro dell'economia locale, la cui assenza ha trasformato Barcellona in una città ad uso e consumo dei soli residenti. Ai timori per l'impatto economico del coronavirus si aggiungono quelli sul fronte sanitario, con la nuova ondata di contagi che ha visto Barcellona convertirsi in uno dei principali focolai a livello nazionale. Ora mismo la situazione sta, diciamo, in una calma tensa in che... Adesso la situazione è di calma tesa, racconta un medico del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Paolo. Ci sono nuovi contagi, ma la situazione è sotto controllo, anche se temiamo che possa nuovamente precipitare come nel mese di marzo. L'arrivo dell'autunno ha spinto il governo catalano a prorogare le misure di contenimento del coronavirus, tra cui l'obbligo di mascherine anche negli spazi pubblici, divenuto ormai parte integrante della quotidianità dei cittadini. Un piano speciale è stato inoltre previsto per gli studenti tornati a scuola, tra classi a numero ridotto e 500.000 di test diagnostici da effettuarsi nei prossimi mesi. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona. Di nuovo in Italia, con la cronaca, torna in carcere Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi, Michele, scarcerato ad aprile dal giudice di sorveglianza di Sassari per l'emergenza Covid. Il boss è stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, è stato ripristinato il 41 bis. Sono accusati di falso e di rivelazione di segreto il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia ed altre quattro persone per il caso Suarez, l'attaccante del Barcellona che lo scorso 17 settembre ha sostenuto l'esame di italiano per avere la cittadinanza, ma quell'esame, secondo la Procura di Perugia, sarebbe stato concordato. E tra poco, nel corso di questa puntata di Effetto Notte, ci sarà modo di scendere più nei dettagli di questa inchiesta. Nobel, per la prima volta dal 1944 non ci sarà la cerimonia per la consegna dei premi a Stoccolma, sostituita da un evento online a causa della pandemia da coronavirus. E per chiudere lo sport, il calcio. Qualificazione agli europei di calcio femminile del 2021, le azzurre di Milena Bertolini nel, ne rifilano 5 alla Bosnia. gol Galli, Linari e Girelli, quest'ultima autrice di una tripletta con due rigori trasformati e uno fallito. È la settima vittoria in altrettante partite nel gruppo B, quindi va forte la nazionale femminile. Per quanto riguarda il calcio maschile, il giudice sportivo della Serie A ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista Diawara, non incluso nella lista dei 25 giocatori della Rosa. La Roma ha preannunciato ricorso. E con questo chiudo questa prima parte della puntata, in modo che subito cominciamo ad addentrarci in alcuni argomenti in particolare con gli ospiti, dopo la viabilità. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi. Allora adesso cominciamo a approfondire alcuni temi, partendo ovviamente dalla politica. Vedo anche i vostri messaggi, c'è qualcuno che dice per esempio che le riflessioni su quanto è successo, chi ha vinto, chi ha perso, dice non mi appassiona, si è votato, prendiamo atto dei risultati e facciamo come in altri paesi europei, indietro le maniche e a lavorare. In realtà è importante fare un'analisi. Ieri c'è stato questo speciale di Effetto Notte che ho condotto insieme poi a tanti ospiti, ma il giorno dopo, un pochino più a freddo, anche vedere che cosa succede all'interno per esempio della maggioranza, degli alleati di governo, perché da questo, ma anche da quello che poi succede nell'opposizione, dipende anche il destino degli italiani, perché magari cambiano strategia, prendono certe linee diverse, insomma cambiano i rapporti di forza, per cui interessa in realtà. Mentre questo ascoltatore dice, ma quello che è palesemente evidente è che PD e Movimento 5 Stelle, dice, sono talmente senza idee che se non restano attaccati alle braghe di Conte finiscono col sedere per terra, dice, le carsi, le ferite. Insomma, adesso capiamo un po' qual è il quadro in questo momento. Stiamo parlando di elezioni, competizioni territoriali, non si sta, i cittadini non saranno chiamati a votare per il governo, per l'operato del governo. Oggi che i risultati possiamo considerare, diciamo, positivi o tutti quanti valutati positivi, non mi sento di dire invece che il governo è rafforzato. Io non la penso così, non cambio idea. Lo ha voluto ribadire, l'avete sentito, il Presidente del Consiglio Conte, anche se il PD di Zingaretti, per le regionali, in particolare i risultati di Toscana e Puglia, e il successo del Movimento 5 Stelle con il sì al referendum, si è detto due successi dei due principali alleati di governo che blindano quindi l'esecutivo. Conte ha detto, come l'avevo detto prima delle elezioni, ritengo anche adesso che come sono andati i risultati, insomma, non abbiano conseguenze sul governo. Allora torniamo su questa importante scadenza elettorale che si è conclusa ieri con Barbara Fiammeri, che ritorna dopo aver fatto molta compagnia ieri nell'effetto notte speciale. Ciao Barbara. Buonasera a tutti. Sei in forze? Sì. Molto bene. Barbara, mi raccomando, da quant'è che non scrivi telegrammi tu? Si usa più il telegramma, è per cose un po' drammatiche. Telegrafica, mi raccomando, Barbara, perché sì, sono tantissime le cose, tante cose da analizzare, vediamo se riusciamo a toccarle tutte. Allora, per esempio, il fatto che Zingaretti con il suo PD, non perdendo in Toscana e Puglia, che erano le regioni più in bilico, dove più si temeva da parte del PD che il centrodestra, in particolare la Lega in Toscana, potesse prendersi le regioni, ha vinto secondo te da solo, e ha vinto il Partito Democratico, o ha solo evitato di perdere quelle regioni? Telegrafica. Vale un po' tutte e due le cose, però penso che questa sia una vittoria, perché è talmente inaspettata che la definisco una vittoria, anche perché è una vittoria proprio di Zingaretti, in quanto nessuno, anche all'interno dello stesso Partito Democratico, ci credeva. Un solo dato, la Toscana. In Toscana il Partito Democratico prende più voti a questa tornata elettorale che un anno fa alle europee, quando ancora aveva dentro casa Renzi. E quindi, cioè, questo dà il significato. In Liguria il Partito Democratico ha superato la Lega, in Puglia stessa cosa. Cioè, al di là di quelli che possono essere poi le valutazioni, bisogna sempre guardare i numeri. I numeri dicono che il Partito Democratico è andato sicuramente meglio di quanto si pensasse. Certo, poi se il raffronto lo facciamo a 5 anni fa non vale più, perché ha ragione Salvini quando dice noi abbiamo aumentato di tot decine i nostri consiglieri. Però senti, siccome l'elezione più vicina era quella delle europee di un anno fa, il confronto sulla tenuta o meno di un partito, secondo me ci sta tutto, lo facciamo sempre. E poi Zingaretti, adesso non lo faccio sentire lungo questo passaggio, ma ha ribadito praticamente le cose che ha detto ieri sulla questione di essere più uniti. Dice: se fossimo stati uniti avremmo vinto un po' ovunque, intende, col Movimento 5 Stelle e anche Italia Viva di Renzi, che in realtà ha avuto delle percentuali molto basse per quanto riguarda i presidenti di regione. E dice, insomma, avremmo vinto dovunque, anche se è vero che l'unica regione dove si sono alleati PD e Movimento 5 Stelle è la Liguria, dove con Sansa però hanno perso. Telegrafica, Barbara. Sì, è vero, però nelle Marche probabilmente un'alleanza avrebbe quantomeno dato la possibilità al centrosinistra di battersela con il candidato della Meloni. Così non è stato, però devo dire che col senno di poi dico anche che invece per Zingaretti questa non alleanza è stata una mano santa, perché così può rivendicare una vittoria tutta sua, mentre se no si sarebbe dovuto trovare a dividerlo con gli alleati. Questo perché lo dico, non perché uno debba dire ho vinto io o abbiamo vinto insieme, ma perché poi ha degli effetti. Cioè adesso Zingaretti vuole anche nel governo mettere dei punti, dei tasselli sull'agenda del governo che siano chiaramente voluti dal PD, cosa che fino adesso, se ci pensiamo, non è avvenuta, nel senso che la battaglia sul referendum, il fatto che non hanno toccato i decreti sicurezza, cioè tutta una serie di cose sono state volute dai 5 Stelle. Il PD è andato un po' a rimorchio, è stato... Ecco, adesso invece ha soprattutto lavorato, diciamo, in senso per non rompere. Barbara, invece adesso che il PD si sente più forte, anche se Zingaretti, così come Conte, hanno assicurato nessun rimpasto, non se ne parla, tutto rimane così, eccetera, ci sarà un rapporto di forze un po' mutato tra PD e Movimento 5 Stelle in breve? Sì, secondo me il rapporto è cambiato. Non credo al rimpasto, sinceramente. Cioè, io non credo che ci saranno interventi all'interno della squadra di governo, ma anche perché forse al governo stesso, cioè a Conte e anche a Zingaretti, non conviene. Credo però che cambino appunto le priorità. Una su tutte, il MES, quant'è che ne parliamo? Ecco, io Zingaretti penso che... ieri ha detto tra le cose che è da fare prendere il MES, quindi questi soldi che arrivano dall'Europa soprattutto per il sistema sanitario, e poi dice il superamento del bicameralismo perfetto, legge elettorale, insomma ne ha elencato un po', i decreti sicurezza di Salvini da cambiare. Sì. La cosa che Zingaretti deve fare, cioè deve trovare, è soprattutto individuare quello che è un tema vero, e il tema vero qui è uno solo: lavoro e giovani, no? Formazione, scuola, università. Questi sono i due grandi temi, a questo dovrebbero servire i 200 miliardi. Lavoro significa anche infrastrutture, perché significa rendere la possibilità al paese, no, di accelerare una serie di processi di sviluppo economico. Quindi questo deve fare il governo. Se sarà in grado, come dice sempre Conte, noi dobbiamo essere giudicati sulla partita del Recovery Fund. Ci riuscirà, non ci riuscirà, non lo sappiamo, però questo è il tema e su questo si giocherà la legislatura, perché questa legislatura sarà portata fino alla fine, cioè fino al 2023. Ormai le elezioni ormai non esistono più neanche come ipotesi, anche perché, cara Roberta, come ha scritto il nostro ottimo Roberto Dalimonte oggi sul Sole 24 Ore. Era ieri qui a Fetonotte, sì. Sì. Se noi andiamo a vedere i voti presi dalle singole forze politiche oggi, a parte Fratelli d'Italia, con l'attuale legge elettorale o con una legge proporzionale comunque, tutti i partiti perderebbero deputati e senatori, per cui pensate se i deputati e senatori attuali sciolgono, aiutano, come dire, contribuiscono a fare la fine del tacchino a Natale. È la solita storia del tacchino, che certo non si offre lì sul piatto d'argento a Natale. Barbara, quindi non si andrà a elezioni anticipate, no. Però c'è da dire che dopo questa insistenza ieri e oggi di Zingaretti sul fatto se fossimo stati più uniti e dobbiamo cercare di rinforzare la nostra alleanza, eccetera, Di Maio poco fa a Pomigliano d'Arco, vicino a Napoli, ha detto: per l'appuntamento elettorale del 2021 dobbiamo fare un tavolo nazionale per mettere insieme le forze della coalizione di governo. Ha cambiato idea? No, non ha cambiato idea. In realtà Di Maio è già un po' che dice questo. L'ha detto, aveva anche tentato di dirlo prima delle elezioni, ma e chi è che non ha voluto? Stato tacitato dai cosiddetti talebani, cioè Di Battista, D'Alessi, tutta quest'area qua, quella che poi in Puglia ha imposto il NIET all'alleanza con Emiliano, perché parliamoci chiaro, lì è stata una parte dei 5 Stelle che hanno pagato caramente, perché in Puglia i 5 Stelle hanno perso oltre la metà dei voti di un anno fa, che già erano la metà dei voti delle precedenti politiche. Quindi Di Maio in realtà sta portando avanti questa posizione che alla fine produrrà uno scollamento nei 5 Stelle, cioè alla fine la parte, diciamo, di Battista dovrà decidere se come dire, fare la minoranza all'interno del movimento oppure andarsene. Chiaro. Se hai citato Di Battista, sentiamo allora Di Battista, che abbiamo fatto sentire all'inizio, dice che questa è la più grande sconfitta alle elezioni regionali della storia del Movimento 5 Stelle. Di Battista che dice grande sconfitta. Ce l'abbiamo, lo so, l'ho messo in scaletta. Niente. Allora, Di Battista comunque dice così, l'abbiamo sentito all'inizio, e dice appunto che è una grande sconfitta questa del Movimento 5 Stelle, la più grande della storia. Sì, ce l'abbiamo, è proprio quello, molto bene. Io credo sia stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle. Considerate, vi do qualche dato, che in Campania passiamo dal 17% al 10%, e in Campania 2 anni fa il movimento sfiorò il 50% delle elezioni politiche. In Campania abbiamo eletto decine di parlamentari, è campano il ministro degli esteri, è campano il presidente della Camera, è campano il ministro dell'ambiente, è campano il ministro dello sport, e abbiamo preso il 10%. Sentiamo Conte cosa risponde a chi dice diciamo che la performance alle regionali è stata molto bassa. Sentiamo Conte cosa dice proprio del Movimento 5 Stelle. Però hanno anche motivo di che consolarsi, perché sono stati i promotori della consultazione referendaria, questa larga pronuncia a favore del sì, direi che è una buona consolazione per chi ha fatto di questa battaglia, diciamo, anche un tratto distintivo. Si può ritenere, Barbara, brevemente soddisfatto il Movimento 5 Stelle, consolato dalla vittoria referendum? Secondo me sì, ma soltanto una piccola annotazione. Non so se avete notato che Di Battista ha posto l'accento, i riflettori, solo sulla Campania. E peccato però che nella Puglia, dove lui è andato a fare campagna elettorale, la candidata alla Ricchia non ha preso meno voti della metà di quelli che ha preso un anno fa. Cioè lui ha messo l'accento sulla Campania, che è terra di Di Maio, perché questo è il punto. Però laddove invece il movimento ha sfidato, cioè la parte appunto contraria poi a questo accordo di governo, perché poi nasce tutto da lì, cioè tutta questa roba qui, parliamoci chiaro, nasce nel momento in cui c'è il cambio di governo, cioè il movimento si allea con il PD, e una parte di ministri che erano stati nel governo giallo-verde vengono fatti fuori, perché i più arrabbiati, caso strano, sono quelli che sono stati fatti fuori. Sarà un caso, però, oppure tu sei maliziosa. Senti, invece un po' di spazio anche a Renzi di Italia Viva, vediamo come si ritiene soddisfatto o meno di come sono andati i risultati elettorali anche per Italia Viva. Aspettavamo qualcosa di più in alcuni territori, ci aspettavamo qualcosa di meno in altri. Essendo un partito nato adesso, alla prima elezione, il nostro giudizio è straordinariamente positivo. Straordinariamente positivo, Barbara, veramente proprio un super telegramma. Straordinariamente negativo, secondo me, perché a casa sua Renzi ha preso il 4,5% ed è un risultato pesante, soprattutto perché l'obiettivo di Renzi era uno, dimostrare, un po' come quello di Berlusconi, dimostrare di essere determinante per la sua coalizione. In Toscana già ne ha vinto, ma il contributo, diciamo, in termini di voti, perché la campagna elettorale l'ha fatta Renzi anche, per Gianni, come dire, a pancia bassa. Però i risultati non sono stati In Puglia è lo stesso, cioè Scalfarotto ha preso meno del 2%, sì. Quindi laddove lui aveva giocato, si era giocato la carta senza di me, il diluvio, ha perso. Salvini, adesso passiamo a Salvini, che dice la Lega comunque è il primo partito. I voti contano, gli elettori stanno dicendo chiaramente che la Lega è di gran lunga il primo partito e il PD segue da parecchio lontano. Se i giornali hanno un'altra idea rispetto alla matematica, io rispetto le idee di tutti. Barbara, abbiamo veramente 43 secondi, dopodiché ti devo firmare. Salvini, è il vero sconfitto oppure comunque il successo di Zaia straordinario in Veneto è anche un successo della Lega? Zaia, ricordo, è il leghista più amato dagli italiani. Sì. No, per me il fatto che Zaia abbia avuto tutto questo successo raddoppia la sconfitta di Salvini, perché Salvini di fatto, rispetto anche lui, rispetto a un anno fa, la Lega arretra di 10 punti in Toscana, in Puglia va malissimo, sta dietro tutta la parte sud della Lega, arretra pesantemente e sta dietro Fratelli d'Italia. La parte nord vince, ma vince grazie, perché le regioni, diciamo, del nord sono due, la Liguria e il Veneto, e in Liguria, non solo in Veneto, ma sì, anche in Liguria, la Lega è surclassata dai governatori, cioè Zaia prende il 30% in più della Lega, della sua Lega, sì, e Toti non c'è, si svincola abbastanza, diciamo. Barbara, ci dobbiamo proprio lasciare, grazie cara Barbara Fiammeri, siamo un torrente in piena di idee, di commenti, di riflessioni. Grazie Barbara Fiammeri, ci sentiamo molto presto. Adesso devo prendere una pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete sempre al posto giusto, nel momento giusto, in modo che non vi sfugga nessuna notizia importante, perché qui ve le racconto tutte in sintesi, la sera Roberto Giordano con voi a fine giornata, e poi gli approfondimenti con gli ospiti ci aiutano anche a chiarire e a entrare più nei dettagli di alcuni argomenti in particolare. Tra l'altro c'è, ricordo, sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, così come i WhatsApp al 349-238-6666. Qualcuno diceva, ma la Val d'Aosta non l'avete citata, è diciamo una votazione un po' più complessa, perché non si elegge direttamente il presidente della regione. Comunque la situazione attuale è che la Lega è il primo partito in Val d'Aosta col 23,9%, però è molto difficile che riesca a formare una maggioranza per governare la regione. Su 12 liste presenti alle regionali, solo 6 hanno superato il quorum, quindi capiremo un po' nei prossimi giorni qualche dato più definitivo, insomma, chi governerà in Val d'Aosta. Ora, prima di passare a questioni che riguardano l'Italia, vi preannuncio, vi dicevo che doveva parlare a momenti il primo ministro della Gran Bretagna Johnson, un discorso alla nazione molto puntato sul coronavirus, perché ha detto c'è nel nostro paese una diffusione di nuovo esponenziale, e poi ha detto metteremo in campo polizia ed esercito. Oggi abbiamo 1500 casi, perfetto, continueremo a salire, però salire in maniera graduale, salire con una crescita controllata, e per controllata intendo dire lenta, controllata mediante tamponi e sorveglianza, e soprattutto senza un impegno massivo del Servizio Sanitario Nazionale, significa avere la situazione sotto controllo. Saranno tantissimi i focolai, vi sarà sovrapposizione poi con le sindrome influenzali, quindi la diagnosi differenziali, però non dobbiamo preoccuparci, cioè i casi saliranno. I casi di contagio saliranno in Italia, l'ha detto oggi il viceministro Sileri, saliranno col ritorno ovviamente delle temperature fredde, dell'umidità, ma dice per ora sono sotto controllo. Sta invece succedendo in modo preoccupante la risalita, avete sentito in Gran Bretagna, ma anche in Francia, in Spagna e poi in Germania. Il ministro Speranza nei giorni scorsi ha emesso un'ordinanza che obbliga il tampone, di fare il tampone a chi viene dalla Francia. Oggi però Sileri ha detto anche il rischio di avere casi di importazione è elevato, servirebbe una strategia più ampia, non solo dell'Italia nei confronti della Francia, ma una visione dell'intera Europa per dare delle linee definite. Allora voglio chiedere tutto questo, sottoporre questi argomenti a Sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, che ringrazio per la disponibilità, sempre molto disponibile. Buonasera Zampa. Buonasera. Buonasera. Allora, quindi in questa strategia più ampia, già si parlava altre volte in cui ci siamo sentite, lei era in collegamento, Sottosegretaria, di una strategia più ampia che riguardi un po' tutta l'Europa. A che punto siamo? Che c'è una discussione in corso sulla reciprocità in particolare, e quindi di una, diciamo, reciproco impegno a controlli. C'è anche però in atto da parte nostra, anche perché nell'attesa hai visto la crescita molto dinamica dei casi di contagio in Francia, non si poteva non prendere prima di aver chiuso un accordo questa decisione, naturalmente sentiti immagino il Ministro della Salute e quindi con tutto quello che si fa dal punto di vista diplomatico, ovviamente scontato questo, però l'Italia doveva prendere una decisione. A questa decisione si sta accompagnando un piano che prevede il tampone negli aeroporti e sarebbe certamente uno dei modi per intercettare per tempo e isolare per tempo eventuali casi importati, come li ha definiti il viceministro Sileri, e perciò per continuare a mantenere alta la guardia, come abbiamo però fatto in questi mesi. Mi pare che l'Italia continui a dare dimostrazioni molto convincenti di una capacità di governo e di gestione, perché gli altri paesi hanno commesso errori inizialmente, in particolare Johnson, che negava per esempio all'inizio, poi si è malato anche lui, lo ricordiamo. È anche avere interrotto troppo presto il lockdown, avere riaperto le scuole in Francia, sì, avere aperto, cioè non avere resistito, e d'altra parte non è stato facile neanche da noi, se lei va anche semplicemente a rivedersi la rassegna stampa di maggio si rende conto dello sfinimento del dibattito, non vi interessa niente, delle scuole, dei bambini. Sì, sì, ricordo le critiche al governo. Sottosegretaria Zampa, Fauci oggi, che era in Italia per questo evento, Frontiere Festival di Salute, o forse era in un'intervista video in collegamento online, sì, l'immunologo in collegamento, della sì. Casa Bianca, ha detto: l'Italia deve usare la massima prudenza a fronte della riapertura delle attività economiche, non bisogna pensare che sia tutto finito, bisogna continuare a rispettare alcune misure fondamentali come l'uso di mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Lo dice a noi Fauci, sapendo che Trump tanto non lo ascolta perché sta negando dall'inizio. Però, per esempio, il viceministro Sileri oggi si è detto più preoccupato di quello che può succedere negli ospedali o nelle case di riposo, più dei pranzi in famiglia e con gli amici che non appunto di quelle situazioni. Lei che cosa pensa a questo proposito? Penso che le RSA vanno nuovamente tutelate e protette fino a quando non avremo portato a termine un'eventuale riforma, ma intanto bisogna prendere dei provvedimenti perché non accada quello che è già accaduto. Devo dire però che io penso che la lezione l'abbiano imparata tutti, l'abbiamo imparata tutti, mi ci metto anche io. Penso che ovviamente tutto è pericoloso se non si rispettano le regole. In realtà in questo momento noi abbiamo molti focolai domestici anche. È evidente che la scuola ha, e l'abbiamo sempre detto, per il numero di spostamenti che porta con sé è altamente a rischio, però è anche vero che noi stiamo intervenendo con una rapidità enorme e che sappiamo fronteggiarlo ovunque, perciò gli ospedali, certo, uno dei problemi che stamattina alcuni pediatri mi facevano presente è che in questo momento se non c'è immediatamente in regione, la regione non mette a disposizione con facilità l'accesso al tampone e soprattutto rapidità e risultato, questi sono due degli elementi diciamo più critici in molte regioni, che tu non abbia subito il risultato. E subito intendo dire che tu la mattina ti fai il tampone, al massimo la mattina dopo. Questa è una criticità. Come si risolve? Questa per chiudere, Zampa, anche perché Speranza ha detto tra le altre cose, il ministro, ci aspettano mesi duri e di resistenza. Sì, la resistenza la si supera riuscendo ad accedere ai tamponi salivali che sta arrivando, un tampone rapido. So che sono state fatte due verifiche sull'attendibilità, una è andata molto bene, una così così, bisognerà però fare un altro passo avanti, questo è dà una garanzia di rapidità enorme ed è quello che ci permetterebbe di procedere più massicciamente anche nei punti di arrivo, di ingresso al paese, quindi gli aeroporti, i porti, le stazioni e così via. Nelle scuole è importantissimo andare veloci. Sì, bisogna chiedere alle regioni di fare uno sforzo più grande, soprattutto quelle che invece fanno ancora aspettare 4, 5, 6 giorni. Perché è importante. Chiudo dicendo anche che il ministro Speranza poco fa ha detto sono pronti da tempo i piani della sanità con i fondi europei, quindi dice sono pronti i piani per la sanità da attuare grazie ai fondi europei. Speriamo appunto che arrivino presto questi fondi e che siano utilizzati nel modo migliore, a cominciare proprio dalla sanità. Grazie sottosegretaria Sandra Zampa e buon lavoro. Arrivederci, grazie a lei. Grazie, a presto. La viabilità. F24. perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano, sempre con voi. Vi anticipavo poco fa alcune dichiarazioni del primo ministro britannico Johnson, Boris Johnson. Era preannunciato questo suo discorso alla nazione che per il momento, dalle dichiarazioni che vedo, dalle anticipazioni, insomma, ha tutto praticamente indirizzato sul tema del coronavirus, che ha detto è una diffusione di nuovo in modo esponenziale, e dice voglio mettere in campo polizia ed esercito. Ma ci colleghiamo direttamente con Londra, dove c'è la nostra Giorgia Scaturro. Cara Giorgia. Buonasera Roberta e ascoltatori. Sta parlando quindi ancora in questo momento Johnson? No, appena un messaggio di 15 minuti alle 8 di sera, come di tradizione, per rivolgersi alla nazione, e ha voluto mettere gli inglesi davanti alle scelte, ora che, come ricordavi, il virus sta espandendosi in modo esponenziale. O si agisce ora, oppure si arriverà ad avere misure ancora più severe quando ci saranno stati tanti morti. E quindi agire ora vuol dire, secondo Boris Johnson, cooperare con le misure restrittive che oggi ha presentato ai comuni, ovvero ritornare al lavoro da casa, non si può socializzare con più di 6 persone, i pub e i ristoranti chiuderanno alle 10, si dovranno mettere le mascherine. Ebbene, queste misure potrebbero restare in vigore per 6 mesi. Prima c'è stato l'appello al buon senso degli inglesi a finalmente cominciare a rispettarle queste regole, e poi invece ha usato proprio i toni duri: se non saranno rispettati entrerà la polizia, ci saranno multe raddoppiate e ci sarà addirittura l'esercito. Quindi la situazione è molto preoccupante, Giorgia, se anche Johnson si sta spingendo addirittura a dire queste cose, a preventivare delle misure così severe, così stringenti. Sì, i casi stanno effettivamente raddoppiando nel giro di 7 giorni. 2 settimane fa c'erano 2 morti, oggi ce ne sono 37, ci sono oltre quasi 5.000 casi, 200 ospitalizzazioni, non solo, ma il settore tamponi è un fiasco colossale che non fa sperare che appunto il virus sia sotto controllo, e per questo il primo ministro ha fatto appello a noi. Dopo i suoi fiaschi ha fatto però appello a noi, dicendo quantomeno rispettiamo queste misure, perché il lockdown nazionale, come è stato annunciato proprio 6 mesi fa, il 23 marzo, è qualcosa non solo può rovinare l'economia e i nostri nervi, ma anche dare molti morti in più a questo paese che già ha un record solido, purtroppo. Momento difficilissimo per la Gran Bretagna, poi c'è anche tutta la questione della transizione definitiva verso la Brexit e le tensioni con l'Europa, però di questo parleremo altre volte. Mi raccomando, Giorgia, sii prudente, capito? Grazie. Mi raccomando, abbi cura di te. Un abbraccio. Ciao cara Giorgia. A voi. Ciao Giorgia. Ora invece andiamo sul tema dei furbetti della cittadinanza italiana, con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Con una vicenda che ha da una parte un po' del grottesco, perché si parla appunto di qualcuno, un calciatore milionario, che per completare un contratto con la Juventus, appunto milionario, ha truffato, insomma, è stata all'Università di Perugia, adesso capiamo, un esame di italiano che doveva fare per avere la cittadinanza italiana e entrare definitivamente nella Juventus. Però da qui poi si è aperta tutta un'inchiesta, in realtà l'inchiesta è partita da un'altra parte e lì è arrivata, Raffaella. Sì, la Procura di Perugia, che tra l'altro da qualche tempo è diretta dall'ex capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone, stava indagando su una serie di problemi finanziari dell'Università degli Stranieri di Perugia. Indagando su questo e mettendo una serie di telefoni sotto intercettazioni, hanno incrociato questa vicenda che è di pochi giorni fa e del 17 di settembre, ossia il giorno in cui Luis Suarez, giocatore attaccante del Barcellona di origini uruguaiane, ha sostenuto l'esame di italiano che è necessario per poter avere la cittadinanza italiana, per tutta la trafila, per riuscire ad avere la cittadinanza italiana. E poi altre persone normali, bambini che nascono magari in Italia da genitori stranieri, ci mettono tanto tempo, no? E poi spiego questo solo... è un tema assolutamente diciamo importante e diciamo delicato, che da tanto tempo, anzi anche oggi dopo all'indomani delle elezioni, stato di nuovo ricordato dal segretario del PD, esatto, il tema dei decreti sicurezza e tutto quello che ne consegue, sì. Anche perché questo è previsto dal decreto sicurezza, e poi c'è il fronte degli Ussoli, ma questo non c'entra con l'inchiesta di Perugia, perché in realtà anche lo stesso Suarez al momento non è indagato, come non è indagata la Juventus, da cui tutto è partito. Però perché la questione qual è? Che la Juventus, che era appunto in trattativa per avere Suarez, non poteva più avere, aveva già esaurito il numero massimo di giocatori extracomunitari, che sono due per squadra, no? Gli altri, esatto, poi devono avere cittadinanza italiana, esatto, sì. A quel punto però Suarez, avendo una moglie di origine italiana, poteva far domanda per la cittadinanza italiana, ma tra i requisiti è quello di superare con un certo livello, che è abbastanza buono, il livello B1, questo esame di italiano. Ebbene, le intercettazioni di professori e dei docenti che l'hanno seguito dimostrano che in realtà lui questo italiano lo parlava in modo molto elementare, sono anche, dicono che parlava all'infinito, che non specificava una parola, testuali dalle intercettazioni, ma che comunque doveva comunque passare questo esame proprio in virtù dei suoi 10 milioni di stipendi a stagione. Questo parlavo in senso discriminatorio, no? Rispetto ad altri che devono aspettare ben altre trafile, insomma, per avere la cittadinanza italiana. Prego, sì, questo però sono le intercettazioni, anche certo, un po' tra il grottesco e quello che è stato carpito anche nella conversazione, nello slang usato dalle persone che erano indagate, quindi bisogna un po' distinguere tra la comunicazione e quello che poi realtà sono le, certo, questioni e i temi ben più grossi e importanti che tu sicuramente ricordavi. Però di sicuro ha acceso quantomeno la questione, questa vicenda, che è però appena iniziata, lo dicevamo, per cui per ora sono indagati il rettore della rettrice dell'Università degli Stati Uniti di Perugia e i professori che hanno seguito il caso Suarez per falso e per rivelazione di segreto, perché in qualche modo, secondo l'accusa, avevano concordato le domande così che lui le imparasse a memoria le risposte. Però è solo all'inizio, per cui si vedrà, diciamo, quali sviluppi porterà. Di sicuro ha riacceso un ulteriore faro sul tema della concessione della trafila per la cittadinanza italiana, ma soprattutto per tutti coloro che nascono in Italia e che casomai parlano anche il dialetto italiano ma non hanno la cittadinanza. Chiaro, grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta, grazie, ciao, a te. Ciao Raffaella, sapete, poi Ratta con la Folgore torna ad aggiornarvi alle 22. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.